Secondo lei come si sta a Tione? A Tione si sta bene, ci sono tanti servizi offerti dal comune e dalle varie associazioni e anche un bel punto di ritrovo, diciamo, tra le persone dei vari paesi che ci sono attorno.